Gente Pardo per la radio sono come Mogol e Battisti per le canzoni. Solo che Mogol e Battisti c'erano sempre tutte e due, no? Quindi Pardo non c'è mai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lino di Mameli. Altezza. Altissimo, e questo va bene. Andiamo a prenderci il titolo. 61,20, 310,85. E per Shitin Mao adesso diventa non dura di più andare a cercare di prendere Tania Cagnotto. Pochi centesimi, 1,65. Non lo sa ancora, non questa lo sa volta ancora. I centesimi sono dalla nostra. Non lo sanno ancora gli italiani. È oro, Tania, è oro! Oro! L'attesa! Sì! Adesso c'è il tabellone! In Italia medaglia d'oro nei tuffi! Con Tania Cagnotto! Tania Cagnotto! Sogno che si è realizzato, ho sempre messo sullo stesso piano vincere un mondiale e appena una medaglia olimpica, e una di queste due cose la volevo raggiungere e finalmente è successo e sono al settimo cielo. Beh, doverosa la copertina di oggi del nostro dottore Giorgio De Luca, perché quanto ha fatto ieri Tania Cagnotto, tra l'altro abbiamo avuto il piacere e l'onore di, e anche la fortuna, per questioni di tempo, di annunciare in diretta la medaglia di Tania Cagnotto, oro mondiale all'età di 30 anni, alla nostra cinese, scrive oggi Fausto Narducci sulla Gazzetta dello Sport, oro mondiale come solo Klaus Di Biasi, ma dalla piattaforma nel 73 e nel 75. Insomma, giornata storica ai mondiali di nuoto, grazie a Tania, poi sentiamo anche altre sue dichiarazioni. Intanto c'è Pardo che si sta cimentando con i tuffi, anche lui. Come va? Sì, sto facendo il tuffo. Come va? Infatti vi volevo salutare, poi dopo magari ci sentiamo con grandissima calma, però devo dire che quel cognome lì non è un cognome normale, no? Nella storia dello sport italiano, quindi c'è anche questa componente, se vuoi, vintage, che parla, che racconta la storia e la cultura dello sport italiano. Beh, quando e poi insomma piccoli, io ieri ho seguito Cagnotto, la gara . è stata veramente emozionante, sì. Emozionante. Tutte le volte che ci sono grandi atleti italiani degli sport cosiddetti minori che ottengono queste vittorie, pensi sempre che sia un peccato, no? Che tutti questi sforzi, questi sacrifici poi meriterebbero una celebrazione quotidiana, meriterebbero un'attenzione quotidiana, sì, da parte dei bambini. Anche se va detto, perché ormai il nuoto ha raggiunto una dimensione pop grazie a Tania Cagnotto, grazie ovviamente alla Pellegrini, grazie a Alessia Filippi, grazie a tutta la grande dinastia dei nuotatori, da Rosolino in giù fino a Magnini. Quindi negli ultimi anni, insomma, l'acqua e le vasche hanno raggiunto il grande pubblico, anche se ovviamente le grandi manifestazioni non sono come le giornate del campionato di calcio, cioè non ci sono tutte le domeniche. Un tuffo nel mercato, il Napoli ha preso Chiriches e Isai. A proposito molto di... bene, benissimo. Sai cosa ha detto Mazzari su Chiriches? Sai cosa ha detto Sarri su Chiriches? Sarri. Sì, no, Mazzarri, ovviamente, Sarri. Ha detto, l'ho visto l'anno scorso una mezza partita, non lo conosco bene. Bene, l'ho visto io però. Com'è? Secondo me è buono, secondo me a quel prezzo lì poi è un ottimo acquisto, insomma, francamente mi sembra che il Napoli stia facendo cose molto bene. Sì. Mi sembra che rispetto ad alcune cose che avevo sentito, una possibile cessione di Mertens a 14 milioni, Versalico a cifre molto molto importanti, e lo stesso Astori, che per carità il Napoli ha cercato e che si sarebbe anche meritato questa opportunità, anche perché la cifra era buona, però mi sembra che il Napoli abbia con Isai, Marquez ha rifatto il lifting alla difesa. Oggi secondo me è fortissimo il Napoli, ma oggi è fortissimo. Sì, sì. Poi ha rifirmato Higuain, questa notizia di ieri, 6 milioni al prolungamento del contratto, vicenda che somiglia, e abbassamento della clausola rescissoria, vicenda che somiglia un po' a quelle di Lavezzi e di Cavani che non hanno preceduto, così a occhi e croce. Pier, ci sentiamo più tardi. Sì, conta il presente, però scusami, c'è da un quarto d'ora, però conta il presente, cioè secondo me al di là di Lavezzi, Cavani e tutto il resto e di quello che sarà, sì. Insomma, oggi questo è un puntello fondamentale per il Napoli, perché un Higuain che rinnova è un Higuain motivato, è un Higuain felice. È un Higuain più sereno e per me è il miglior attaccante del campionato ad oggi, così guardando dopo la partenza di Tevez, no? Sì, e quindi sì. Napoli, attenzione, poi attenzione, sembra molto motivato. Esatto. Molto motivato. A tra poco ci sentiamo più tardi, ciao. Pierluigi Pardo nel corso del programma. Alessandro Alciato, buongiorno da Sky. Buongiorno, come stai? Molto bene, voi? Benissimo. Senti, parto subito dalla fine. Allora, chi è l'attaccante che comincia con la C, che prende il signor Una vita al massimo, scritto con te, Massimo Ferrero? È Clayton del Figueirense, brasiliano del 1995. Qualche giorno fa era assolutamente favorito per l'attacco della Sampdoria, però insomma nelle ultime ore vedo tanti movimenti, quindi non mi sbilancerei sul nome del prossimo attaccante, però quando gliel'ho chiesto in diretta su Sky era assolutamente il favorito. Me lo ricordo bene, poi si è tornato a parlare di quello che comincia con la B, e cioè Balotelli, però lì mi sembra che il discorso sia... Poi ha fatto tutto l'alfabeto. Esatto, mi sembra che il discorso sia vagamente più fumoso. Partirei da Mr. B che sta andando a pranzo da Berlusconi. Che succede oggi secondo te? Secondo quanto sai? Succede che io veramente i tempi non li so e B non li so prevedere con certezza, però è un finale scritto ormai da mesi, no? Per l'unica scommessa da fare su quando o a quale ora di quale giorno ci sarà la firma per la chiusura dell'acquisto del 48% e l'annuncio, ma è un finale scritto, cioè di una storia che all'inizio sembrava incredibile, poi insomma qualcuno ha iniziato a tirar fuori dame cinesi, scacchiere giapponesi, regine coreane, di altri paesi, coreane, sì, cancellieri tedesche, ma in realtà poi alla fine, cioè Bita e Ciao Ball, erano 7 mesi almeno che trattava questo acquisto di quote. Io credo non sia ancora finita, nel senso che uno che spende tutti quei soldi non si può pensare che nel giro di qualche tempo non possa aumentare la sua percentuale, quindi non possa comandare veramente, perché non mi immagino nessuno che spenda 480 milioni per non comandare. Ma è chiaro. No, ma il disegno è fatto, si tratta adesso di firmarlo in calce e poi di dare l'annuncio ufficiale. Alessandro Ciato, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere tra Mancini che torna dalla Cina portandosi qualche preoccupazione, Allegri che punta un record storico, cioè al quinto titolo, cosa riuscita solo a Juventus negli anni 30 e al grande Torino, eccetera eccetera eccetera. State con noi. Mi è appena arrivato un SMS che Pardo è là che nuota con Cassaro, la moglie di Cassari, al lago di Fregene. Tutti convocati. Tutti convocati. Quali sensazioni di torno in Italia? Una buona Inter? Spero che faccia più fresco in Italia che in Cina. Mister, dai, un Inter cresciuta, no? Un Inter che comunque mostra nuove soluzioni, è contento, almeno questo. Sì, c'è tempo, diciamo ancora un mese. Poi fra una settimana dovrebbe arrivare Perisic. Non dite mai, neanche la mattina. Questo Mancini accolto così all'aeroporto, all'arrivo, al ritorno dalla Cina. Alessandro Alciato, si è portato secondo te qualche preoccupazione? O la notizia di Jovetic, cioè quella imminente dopo lunga trattativa di Perisic, può così fare alzare queste preoccupazioni come nebbia cinese? No, credo che con qualche preoccupazione, anzi con più di una preoccupazione, Mancini sia tornato dalla Cina, però credo che siano preoccupazioni destinate a svanire in fretta, perché è vero, il precampionato ha detto che l'Inter non ha vinto, ha detto che la differenza ad esempio rispetto al Real Madrid è elevata, ma ci voleva la tournée cinese per scoprirlo, no, insomma, perché è reduce da un campionato assolutamente non positivo. Altrettanto vero però che stanno facendo un mercato molto intelligente, che si capisce che questo sarà l'Inter di Mancini, e Mancini quando dice c'è tempo ha assolutamente ragione, perché Mancini per restare ha avuto delle garanzie, ha avuto garanzie di costruzione di una squadra importante, di una squadra che può competere fino alla fine. Marotta l'altro giorno non ha detto a caso che l'Inter è una pretendente per lo scudetto, è vero, l'Inter è una pretendente per lo scudetto, e ripeto, la presenza di Roberto Mancini è assoluta garanzia a questo proposito. Cosa manca secondo te? Cioè sufficiente Jovetic, sufficiente Perisic, o mancherebbe qualcos'altro? Io credo che siano più che sufficienti, manca, come si diceva una volta, l'amalgama, come disse un presidente, ditemi dov'è che la vado a comprare. Non la vendono al calciomercato. Infatti, però è vero che il tempo c'è, il tempo per allenarsi tutti i giorni magari in condizioni un po' più normali, non prendendo un aereo ogni giorno, andando all'altra parte del mondo, perché poi questo è un altro discorso secondo me da fare. Conte quando è andato via dalla Juventus, fra i mille motivi, aveva messo anche la costruzione del precampionato dell'anno scorso, perché si cambiavano fusi orari troppo in fretta, si passava dal caldo al freddo, poi di nuovo al caldo. Lui non era d'accordo, disse che il livello del marketing, i benefici del marketing erano troppo sbilanciati rispetto a quelli che sarebbero stati i benefici per la squadra. Poi in realtà la Juventus ha fatto una grande stagione, la Juventus è arrivata in finale anche di Champions League, però spesso queste tournée, almeno nel breve periodo, incidono e magari raccontano cose non troppo vere. Sì, il logorio del calcio moderno, di cui non si può fare a meno. D'altra parte, ogni grande squadra fa il giro del mondo in questo periodo. Senti, ma non meriterebbe un libro anche la vicenda Salah, che adesso è arrivato a Roma ma praticamente fa il turista, perché non c'è l'accordo ufficiale con il Chelsea, quindi non può essere presentato, non può firmare il contratto, domani farà le visite mediche, si allenerà a parte, magari andando a fare qualche corsetta a Villa Borghese, morale è lì ma non è lì. Però qualcuno ha sbagliato, e chi ha sbagliato secondo me alla fine è giusto che paghi, e non è detto che quel qualcuno non sia il giocatore, perché poi alla fine stiamo parlando della Fiorentina e la dirigenza, insomma, la conosciamo tutti per serietà, stiamo parlando della Roma e la dirigenza la conosciamo per serietà, stiamo parlando di un giocatore che alla Fiorentina ha fatto bene, stiamo parlando di un Chelsea che insomma ha dato l'ok a Salah per andare a Roma, però dice stai lì, come dici tu, fai turista, il Colosseo è bellissimo, però qualcuno ha sbagliato, ragazzi. Non c'è dubbio su questo. Allora, un'ultima cosa riguardo la Juventus, ti faccio sentire Allegri su quest'ultimo sogno, che poi sogno insomma potrebbe non essere. La Champions per noi rimane sempre un sogno. Per noi il nostro obiettivo numero uno è lo scudetto. Quest'anno abbiamo una grande possibilità di entrare definitivamente nella storia della Juventus e del calcio italiano, raggiungendo il quinto scudetto di fila, cosa che nella storia del calcio italiano hanno fatto solamente due squadre, la Juventus dal 30 al 35 e il grande Torino. Sandro Alciato, Juventus contro se stesso ormai, contro i suoi record e contro i record storici che insomma risalgono a ormai moltissimi anni fa. Non darei per scontato che ciò non accada, nel senso che a oggi la Juventus è ancora la squadra favorita per lo strapotere che ha dimostrato nell'ultimo campionato, per il fatto comunque di essere arrivata in finale di Champions League, che è stata assolutamente inaspettata, però ha dato ancora la consapevolezza dei propri mezzi in più di un giocatore, e poi perché davvero è stato un meccanismo quasi perfetto nella scorsa stagione. Quindi io insomma vedo la Juventus assolutamente favorita, e quindi questo quinto scudetto è molto più che possibile, questo quinto scudetto consecutivo. Per quanto riguarda la Champions invece forse un po' più dura, perché adesso, come dicevamo, la Juventus è arrivata l'anno scorso inaspettatamente in finale, adesso invece la guardano tutti come la finalista dell'anno scorso e la affronteranno tutti come la finalista dell'anno scorso. Sostanzialmente ovviamente se giochi contro il Real Madrid e lo batti hai grandi soddisfazioni, se giochi contro il Bate Borisov e lo batti non ne hai. Ecco, quest'anno la Juventus è più Real Madrid che Bate Borisov, sì, almeno sì, nelle aspettative. Anche se Real Madrid, cioè il successore dell'uomo che preferisce la Coppa, che ha i suoi problemi, bisogna dire. Sono grandi speranze per Sarri, e se farà male a Napoli sa che ci sarà una grandissima squadra che lo aspetterà. Ma è chiaro, questo è un mistero, questo è un mistero che non mi spiego. Quale? Quello che il Real Madrid abbia scelto un allenatore che non ha fatto benissimo nella stagione prima, anzi. Sì, no, rimane un mistero irrisolto questo. Detto questo, Sarri super scelta, perché davvero è uno che ha sempre parlato poco, ha sempre fatto molto e soprattutto, no, mille presidenti dicono vogliamo un allenatore che faccia giocare bene a calcio, e qui il Napoli un allenatore fa giocare bene a calcio ce l'ha e non ce ne sono troppi. No, poi gli sta anche prendendo giocatori funzionali alle sue idee, quindi questa è un'altra splendida idea del Napoli. Dopodiché se De Laurentiis avesse fatto un'offerta per acquistare l'Empoli magari risparmiava. intanto c'è un ascoltatore che mi scrive: sentite se Mister V ha voglia di comprare anche la viola. Non credo, penso che il Milan basti avanzi. Grazie Alessandro. Grazie a voi, è come sempre un piacere. Per noi è un piacere, Alessandro Alciato. Visto che stavamo parlando di Sarri, vi faccio sentire che cosa ha detto sui suoi attaccanti e poi anche sul suo rapporto con De Laurentiis, perché questo è interessante. Prima gli attaccanti, Sarri e i suoi attaccanti. Mertens sta facendo benissimo, ma i nostri giocatori più leggeri stanno facendo già tutti molto bene, compreso Calleoni, Insigne, quindi un po' perché sono giocatori fortissimi dal punto di vista tecnico, un po' perché sono giocatori abbastanza leggeri, stanno risentendo un po' meno dei carichi di lavoro di questo periodo. E ti dirò di più, quando li ho fatti giocare tutti e tre insieme mi sono divertito anch'io a vedere. Eh sì, e poi a sto punto c'è Calleon, che era dato ormai da tantissimo tempo come partente, c'era già una destinazione che era Atletico Madrid, l'affare è sfumato e a questo punto Sarri guarda con interesse anche allo spagnolo. Lì davanti sono in tanti, guidati da un Higuain che ha ritrovato fiducia, sorriso, convinzione e qualche soldarello in più. Allora, prima di Massimo dalla provincia di Fermo, Alessandro da Milano, 800240024, sempre per chiudere il capitolo Sarri e Napoli, l'allenatore ha parlato anche dei suoi rapporti con De Laurentiis. Le caratteristiche del presidente le conoscete tutti, è una persona intelligente, di grandissima personalità, e le persone che hanno queste caratteristiche non sono mai persone facilissime, però alla base c'è personalità e c'è intelligenza, quindi penso che da questo punto di vista ci saranno litigate, però alla fine si può andare avanti bene, ma le litigate fanno parte quando due persone hanno intelligenza e personalità contemporaneamente, la litigata è facile. E quindi fuori l'elmetto qualche litigata ci sarà, questo non era difficile da capire anche senza l'ammissione di Sarri. Massimo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Allora, quest'anno vedo molto bene il Napoli, io sono tifoso juventino, ma se il Napoli ripete gli schemi che faceva l'Empoli, triangolazioni con i giocatori che ha, penso che sia l'unica squadra che può dare il filo a torcere la Juve quest'anno. Penso che col calendario che hanno fatto, partenza a razzo, penso che avrà 9-12 punti dopo 3-4 giornate, quindi dopo l'entusiasmo Napoli è pericolosissima. Quando Napoli si comincia a entusiasmare la cosa si fa molto molto pesante, sì, per sì, noi sì. No, ma e poi se tanto porta tanto l'anno prossimo Sarri arriverà a Barcellona, perché se a Barcellona Madrid, certo, lui non può certo fare peggio del Benito, ma naturalmente non gli resta che il Barça con c'è Luis Enrique, ma questo che ha appena vinto la Champions League, ha vinto il triplete, ma questo è un dettaglio, perché cosa vuole che sia. Sì, il Napoli interessante, vediamo come completa la squadra. Intanto Kirikes è arrivato, Isai sta arrivando, perché non è ancora ufficiale ma è pressoché certo. In un giorno ha messo a posto la difesa, vedremo i movimenti in uscita. Zuniga potrebbe essere ceduto, ma è ormai ai margini della rotazione, tanto che gli hanno dato anche qualche giorno extra di vacanza, 7 giorni in più di vacanza dopo le fatiche della Coppa America. Gli altri no, ma lui sì, sta lì, torna un po' più tardi, va Camillo. Alessandro da Milano, buongiorno. Alessandro, da Milano. Alessandro da Milano non c'è, ma lo recuperiamo. C'è invece chi scrive: spero di vedere la coppia Balotelli e Cassano senza club, sarebbe la vittoria della serietà del calcio italiano. No, io invece spero di vederli in campo tutti e due, magari in una squadra diversa da Liverpool, naturalmente per Balotelli, una squadra a misura delle loro ambizioni e della loro fame. Fai sentire Muntari? Muntari sì che se la ride, ragazzi. Al-Ittihad, l'abbiamo detto ieri, per 7 milioncini l'anno per 2 anni, 7 più 7, insegnava la maestra, fa 14. Muntari. Con spirito giusto è sempre il lavoro, è sempre passione per... questo è un altro passo avanti della mia vita. Alla faccia del passo avanti, pagano quei soldi per un buon mediano, chissà se va uno forte, cosa possono fare. Si diceva di Boateng che potrebbe raggiungere Muntari a cifre non meglio specificate. Allora, adesso ci fermiamo per la borsa, ma poi vi racconto, ma magari l'avete letta anche, facciamo un tuffo, visto che il tema della puntata era l'impresa di Cagnotto. Abbiamo fatto tuffi nel mercato, tuffi nel futuro, tuffi nel Napoli, eccetera eccetera. Poi facciamo un tuffo in questa polemica tra Mourinho e Lady Benitez. Pardo, non c'è mai, uno dice, ma è a fare delle telecronache, è a fare la boa al largo di Fregene. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Dunque, cosa è successo? Cosa sarà mai successo tra Mourinho e la signora Benitez? La signora Benitez ha detto: beh, mio maritino va ad aggiustare i casini che gli lascia l'amico. Questo dichiarato al quotidiano La Region. Ovviamente Mourinho mica gliela fatta passare, La signora è in confusione, non è uno scherzo, spiegato cos'è. Nel caso del Chelsea ha sostituito Di Matteo, nel caso del Real Madrid ha preso il posto di Ancelotti e non il mio. Dove ha preso direttamente il mio posto è stato all'Inter, gli sono bastati 6 mesi per distruggere la squadra. Poi ha aggiunto: la signora dovrebbe occuparsi delle sue cose anziché di me. Si occupasse della dieta del marito, ad esempio, non parlerebbe di me. Ci può stare. Lady Benitez e Mourinho. 800 24 00 24, numero verde. Gianluigi da Milano, buongiorno. Sì, ciao, sono tifoso interista. Ciao, tornato Pierluigi Pardo. Pier, ci sei? Ciao. Volevo ricordare ad Allegri che oltre al Grande Torino e alla Juventus c'è anche un'altra squadra che vince 5 scudetti di seguito. Sì, eh? È l'Inter. Ah, sì. Sì. Sì, ma posso dire una cosa? Sono cose... Sono spoetizzante, no? Bisogna avere i grandi obiettivi, i record, per carità, ma insomma, si vive per il presente, si vive per il godimento di continuare a vincere nel caso della Juve o per il godimento di interrompere un dominio nel caso delle altre. Poi i record, per carità, contano, i 5 scudetti consecutivi sono chiaramente un capolavoro, è qualcosa che si è verificato solo con Torino e Inter, quindi certamente questa è una misura di quanto sia difficile, no? Di quanto sarebbe grandiosa l'impresa della Juve se c'è il titolo di tira. Sì, però, insomma, in ogni caso è chiaro che resta roba da almanacchi, no? Sì, ma resta lo sfondo della polemica, come si sarà intuito sul numero di quegli scudetti. Rosario Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, un saluto in particolare al dottor Pardo. Buongiorno, che stimo, Rosario. Che stimo e apprezzo tantissimo dai dove tempi. Sei? Sono tifoso del Napoli, in questo momento sono in zona Verona perché sono un camionista, vi ascolto sempre nei limiti del possibile quando il tempo, insomma, la guida me lo consente. Avevo da condividere con voi una curiosità. Sono d'accordissimo sul fatto che Maurizio Sarri abbia la capacità di insegnare calcio, cosa che oggi è sempre più difficile trovare per quello che riguarda un allenatore, insomma. Io invece condivido questo. Sarri, e soprattutto l'ha dimostrato proprio nel caso specifico contro il Napoli l'anno scorso, abbiamo fatto bruttissima figura contro l'Empoli sia all'andata che al ritorno. Sì, il Napoli non è stata l'unica peraltro a fare brutta esattamente, figura. Esattamente, esattamente. Quindi la curiosità è questa: perché si assume, tra virgolette, si ingaggia insomma un allenatore come Sarri e poi gli si fa soltanto un contratto di un anno? Questa è la mia curiosità, ma è la mia domanda che volevo porre a voi. Vi ascolto per radio e vi ringrazio e vi faccio ancora i miei complimenti. Grazie. Guarda, a lei, una cosa, che De Laurentiis ci stia mettendo la faccia. De Laurentiis ha scelto l'anti-Benitez, nel senso, ma non perché Benitez sia una cattiva persona, non lo è affatto, però ha scelto un tipo di profilo completamente diverso rispetto a un anno fa. Vuole un allenatore affamato, vuole un allenatore umile, proletario. Sarri da questo punto di vista è il contrario del profilo galattico di uno che infatti non a caso adesso il Real Madrid. E il contratto di un anno, sono d'accordo con te, generalmente non aiuta. Non aiuta perché per quanto sia... No, cominci in scadenza. Cioè, cominci l'anno in scadenza. Per quanto sia assurdo, perché uno dovrebbe... C'è un contratto di 365 giorni, cioè il giocatore dovrebbe giocare e dare il massimo sempre e comunque. Però è chiaro che un anno di contratto ti toglie un po' di forza, quindi... Su questo sono d'accordo, però ti dico anche che De Laurentiis ci ha messo la faccia tantissimo quest'anno. No, è vero, l'ha voluto lui. Questo lo diciamo un mese fa, mi ricordo che lo dicevo un mese fa. Comunque De Laurentiis è uno che quest'anno ha fatto una scelta sua. Cioè se la stagione di quest'anno dovesse fallire sarebbe colpa sua, così come i meriti sarebbero meriti suoi, molto di più di quanto era l'anno scorso con Benitez. Sì, e non a caso secondo me sta facendo adesso una campagna qui di grande livello. Ma sai, succede anche a me, succede spesso quando un presidente sceglie di persona, di suo pugno l'allenatore, poi tendenzialmente la squadra gliela costruisce. Io saluto l'arbitro che ha diretto la finale dei mondiali di calcio, Nicola Rizzoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Buongiorno Pierluigi. Dove sei Nicola? Ma che sono a casa, stiamo facendo gli allenamenti. Gli allenamenti. In pieno allenamento. Purtroppo. Gli arbitri non vanno in vacanza mai, non si riposano mai, non parlano mai. No, sì, perché tu hai parlato con un libro, tra l'altro bellissimo. Sì, io volevo partire dal titolo di questo libro mettendoci un punto interrogativo. Si intitola "Che gusto c'è a fare l'arbitro?". Se ci metto un punto interrogativo, io faccio questa domanda: che gusto c'è, Nicola Rizzoli, a fare l'arbitro? Il titolo nasce un pochettino da quello. Alla fine del libro uno dovrà decidere se mettere o continuare a tenere un punto interrogativo piuttosto che mettere un punto esclamativo. È una domanda che, se viene fatta a me, è abbastanza evidente che il gusto possa essere a fare l'arbitro. In realtà è un modo per far conoscere tutti quelli che sono i sacrifici, le parti belle, le gioie e i dolori di una carriera che comunque è lunghissima. È un modo per farsi conoscere meglio. Se voi pensate solo una cosa, indipendentemente dalle qualità che posso avere un ragazzo un domani per diventare anche un calciatore di Serie A, che quindi in 2 anni, a 17, 18, 19 anni, se uno è un talento, diventa un calciatore di Serie A, per un arbitro, indipendentemente dal talento che hai, hai una gavetta da fare minimo di 13 anni che fa parte di una carriera che è piena di montagne russe, diciamo, momenti belli e momenti brutti, e magari questo è un modo anche per far conoscere quella che è la carriera di un arbitro. Sì, Pier. Io ho due curiosità, quindi mi gioco subito la prima. Io vorrei che insomma, il numero uno degli arbitri italiani è uno dei migliori arbitri al mondo, con una meravigliosa Germania-Argentina alle spalle, dicesse qualcosa sulla gavetta. Perché poi insomma noi, io lo sai, faccio le moviole, insomma, però io credo che tutti noi dobbiamo comunque richiamare le persone a un certo senso di responsabilità. Allora ci sono gli arbitri che arbitrano partite in periferia, che arbitrano partite di serie minori, dove magari non c'è neanche il livello di sicurezza e di ordine pubblico. Ecco, questo credo che sia un'emergenza, credo che sia un tema, cioè ricordarsi comunque sempre che stiamo parlando di una cosa che dovrebbe essere un gioco. E insomma, immagino che anche nella storia di Rizzoli ci sia un passato di questo tipo, no? È assolutamente vero, no? Hai detto bene soprattutto un paio di cose. La periferia è quello che la Serie A, il calcio maggiore, comunque può trasmettere alla periferia, che sono tendenzialmente tensioni anche nei confronti dei direttori di gara, che delle volte, quando si tratta di periferia, sono ragazzini di 20 anni, 18 anni, e quando vengono messi in campi dove alla presenza magari 200, 300, 400 spettatori, hanno solo 2 persone di forza dell'ordine, quindi è anche una sfida contro un rischio, perché in Italia purtroppo oggettivamente andare a arbitrare in periferia può anche essere un rischio.

già le prime 5 sono fuori. La Fiorentina è arrivata quarta, è arrivata quarta spessissimo in questi anni. Cioè, quello che voglio dire è una provocazione, per carità, perché poi il calcio ha altre regole. Purtroppo, purtroppo, lo dico chiaramente, purtroppo, perché a me piaceva il calcio dove il Verona o la Sampdoria poteva vincere il campionato, o il Torino poteva vincere il campionato. Oggi i fatturati contano. E la Fiorentina oggi ha una situazione da settima, però la squadra d'Italia. Sì, sì. Sul livello ma no, ma sai cos'è Pierluigi? Ma ci sono rimasti. Io capisco, ti dico la Fiorentina. Sono rimasti male, ma sono rimasti male per questa storia qui di Salah, perché è stata una storia molto mal gestita. Pierluigi, Salah è un'altra storia, però io quello che voglio dire è, se io devo vedere così, ragionare astrattamente, i Della Valle sono arrivati e da tanti anni hanno ridato una competitività alla Fiorentina clamorosa. Poi è ovvio che la Juve è un'altra cosa. La Juve fattura il doppio. E che vogliamo fare? L'Inter fattura molto di più, il Milan fattura molto di più, perché ha più tifosi, perché ha più diritti televisivi, perché ha un peso diverso da un punto di vista commerciale nel mondo. I Della Valle sono bravissimi. Poi adesso non entro nel merito delle scelte. C'è il presidente che lancia il cuore un po' più in fondo oltre l'ostacolo, e c'è quello che magari è un po' più braccino. Però voglio dirti, la sostanza è che la storia di Della Valle a Firenze è una storia di successo. Se la guardiamo laicamente, razionalmente, è una storia di successo. Ma certo, ma poi lottano stabilmente con la Roma, col Napoli. Del meraviglioso tifoso viola che giustamente sogna lo scudetto, che segue questo trofeo che non è mai arrivato, ci si è fermati in finale contro il Napoli in Coppa Italia, in semifinale l'anno scorso ero a Siviglia, 4 palle gol nel primo tempo, da una sfiga sovrumana contro il Siviglia nel primo tempo. Io capisco la rabbia del tifoso, però se usciamo da questa roba qui e la valutiamo razionalmente, la Fiorentina è arrivata quarta, arriva continuamente quarta, quinta, cioè è oltre la dimensione commerciale che dovrebbe avere. No, ma infatti c'è una gestione che funziona. Ma che funziona ormai da anni. C'è lo sfascio. Assolutamente, non c'è sfascio per niente. Così come mille volte abbiamo rimproverato tante cose a Lotito, ma Lotito ha una qualità di risultati che vanno oltre. Sì, qualità poi, continuità, perché secondo me certamente la serialità è un valore e lui qualche volta sicuramente non sarà stato all'altezza. Si possono dire mille cose, ma dal punto di vista della gestione sportiva, la Lazio che arriva terza è un trionfo. Ma chiaro, ma poi ragazzi, ti ripeto, per queste squadre il terzo del fatturato di Juve Milan Inter. Per queste squadre ciò che sorprende di più Fiorentina, Lazio in particolare, è la continuità nei risultati negli ultimi anni. Leonardo, è un po' triste perché a me piacerebbe tantissimo avere un proprio a me come da spettatore, mi piacerebbe tantissimo avere un campionato dove anche il Verona, dove anche la Fiorentina, dove anche il Palermo, dove si possono non esiste più in nessun campionato del mondo, ma in nessun posto succede. Non succede il Southampton, non vince il campionato di Inghilterra, ma neanche il Tottenham, che è una squadra importante, capito? Cioè, purtroppo la dimensione, il disegno dei campionati è questo qui. Leonardo Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Purtroppo non c'è più, volevo parlare con l'arbitro Frizzoli. Purtroppo sì, se n'è andato, perché io sono un ex calciatore di tanti anni fa, di 25 anni fa, ho fatto un brutto gesto a un arbitro e sono stato squalificato 5 anni. E quindi volevo chiedere scusa all'arbitro più bravo, diciamo, mondiale che abbiamo, e se lui poteva fare le scuse in diretta all'arbitro che magari, chi lo sa, si sta ascoltando. Beh, ma io credo che credo sia l'arbitro. Come si chiama l'arbitro? Si chiamava Zaccaria. Partita? È una partita di dilettanti. Io ero il capitano e purtroppo gli ho dato un calcio nel sedere. È così. Ho preso 5 anni di squalifica. Sono passati 25 anni, però. Sì, ok. Quindi ormai è prescritta. Soprattutto sono stati scontati 5 anni. Ci può stringere la mano. La cosa più importante, secondo me, è culturale. È molto bella questa telefonata a distanza di 25 anni. Io umanamente la giustifico subito, cioè io sono dalla parte di lei che gli ha dato il calcio, nel senso che è un gesto sbagliato, per carità, però immagino che sia stato un gesto istintivo in quel momento lì, quindi non è costato 5 anni di squalifica. Non è un bel gesto, ma non fa di lei una cattiva persona in assoluto. Quello che è importante sarebbe educare tutti a rimuovere nei limiti del possibile la cultura del sospetto. Io dico la verità, noi la Movida la facciamo, però io ho la fortuna di avere un signore che si chiama Graziano Cesari che mi dà un approccio tecnico sull'arbitro, sì. Mi dice questo è un errore tecnico perché l'arbitro, oppure mi dice anche guarda questo errore è clamoroso, non c'era giustificazione perché l'arbitro vedeva benissimo, però mi dà comunque una prospettiva tecnica dell'errore, perché secondo me tanto è inutile pensare di non parlare di situazioni arbitrali, se ne parla in base all'Italia, ma bisogna provare a farlo secondo me con il massimo della trasparenza, anche se vuoi, della trasparenza, del rispetto, ma anche proprio dell'aspetto tecnico, cioè metterci nei panni dell'arbitro che ti dice guarda questo qui è un errore grave, questo qui è un errore piccolo, questo qui è un errore di questo tipo, qui ha sbagliato perché probabilmente è stato ingannato dal fatto che ha visto questo, è quella la cosa, è un mestiere difficilissimo sicuramente, però il pensiero veramente va ai tanti arbitri delle partite di periferia, sì, perché quelli rischiano veramente, rischiano per una mancanza di cultura che tu vedi spessissimo, ma io mi ricordo qualche anno fa che andavo a commentare partite anche di altri sport, insomma spesso la cosa più drammatica sono i genitori delle giovanili, no? quelli insopportabili, cioè quelli sono terribili. Quella è una cosa insopportabile, perché è chiaro che banale dirlo, banalissimo, l'esempio arriva da lì e l'educazione arriva da lì. Francesco Torino, buongiorno. Sì, signor Carlo, buongiorno, un piacere parlarle. Reciproco. Saluti anche il signor Pardo. Saluti. Senta, guarda, io vivo a Torino ma sono tifoso della Roma, quindi sono già in una condizione abbastanza complicata. Sì. Ma il discorso che volevo fare è questo, cioè sono abbastanza deluso su due punti per quanto riguarda la Roma. Il fatto che ancora, perché di fatto ancora sul mercato Romagnoli, e come la società voglia quantomeno monetizzare su un giocatore del genere, quando secondo me è un giocatore su cui investire, cioè proprio lamento una mancanza di progettualità alla società. E la seconda cosa è che veramente è stucchevole, sempre questo refrain anti-juventino, che ogni volta che i giocatori della Roma aprono bocca sulla Juventus, secondo me commettono delle figure veramente oscene. C'è il nervo scoperto, c'è un nervo scoperto che rimane tale, che è diventato e fa più male, credo, alla luce dell'ultima stagione. No, ma poi c'è anche secondo me questo mondo dei social network, che comunque è un mondo che può creare casini, può creare problemi. Io penso che alla fine, nello specifico, Nainggolan e Bonucci, se li mettiamo nella stessa stanza a parlarti, non hanno neanche detto nulla di particolarmente epocale. Pier, ci sentiamo domani, devo chiudere. Voglio dire una cosa, scusami, 20 secondi. Che ha ragione Bonucci quando dice che ha goduto le vincite di 4 scudetti consecutivi. Certo, ha perfettamente ragione, e ha ragione Nainggolan nel dire che cercare uno scudetto a Roma è molto più difficile, con più difficoltà, è una cosa bellissima. Cioè sono due prospettive dove io non è che riesco a dirti che uno c'ha ragione e l'altro no, ma non esiste una ragione, non esiste una parte di ragione e una parte di torto, e sono due dichiarazioni spontanee e che trovo normalissime. Devo salutarvi tutti, ciao, grazie Giorgio De Luca, grazie Gianmarco Ferronato e Giovanni Melchiori, ciao buone vacanze, e nuota anche per me, fa la paperella.